sul sito della radio www.ondarossa.info. Allora, siamo qui con Flavio Signore, che presenta questo documentario questa sera alla Certosa e a Ciurmo, questa vineria che si trova appunto a Via dei Savornian, col comitato di quartiere della Certosa, che salutiamo. E iniziativa, insomma, la proiezione di questo documentario che tu hai realizzato ormai, se non mi sbaglio, un paio di anni fa, giusto? Un anno e mezzo fa. Sì, un anno. Beh, ciao a tutti, prima cosa. Sì, adesso c'è, sì, più di un anno e qualche mese. Sì. Un anno e qualche mese, insomma, tu sei andato appunto in Siria in un momento sicuramente, insomma, dove era anche forse, non so, più facile che adesso probabilmente entrare e poter riprendere. C'era un controllo forse da parte anche, non so, di Assad, comunque di alcune zone, migliore di adesso, no? E hai più o meno, insomma, ripreso, fatto interviste, eccetera. Beh, raccontaci un po' innanzitutto come nasce questo documentario, di cosa, qual è il fuoco dove che hai voluto raccontare, il punto che hai voluto raccontare. Sì. Devi stare vicinissimo al microfono. Molto bene. Va bene, prima cosa è un documentario, appunto, che abbiamo realizzato in due, cioè io e anche Danilo Ricciardello, che sarà questa sera, che parteciperà alla presentazione del documentario. E come dicevi tu, è un documentario che ha più di un anno e qualche mese, per cui chiaramente la situazione ha avuto un'evoluzione molto forte, no? Diciamo che nel momento in cui noi siamo andati, una delle nostre priorità è stata quella di dare anche la parola alla parte che secondo noi nei mezzi di comunicazione ufficiali, nei mezzi di comunicazione di massa non era rappresentata, quindi tutta la parte di civili e anche di attivisti o anche di persone comunque sia addirittura legata col governo o quanto masse che non erano legate con questa ribellione, perché era un momento nel quale la ribellione si stava dipingendo qui nei nostri paesi occidentali o comunque sia nei mezzi di massa di comunicazione come appunto una ribellione, come persone che combattevano per migliorare la Siria. Adesso, con la prospettiva, da un lato tu dicevi che chiaramente la situazione è peggiorata, chiaramente la situazione reale della Siria è peggiorata, perché vediamo, e lo vediamo anche nelle immagini, un paese completamente, no, distrutto, che più o meno sta nel caos, non completamente secondo le zone, no? Immagini di distruzione che ricordano le immagini della guerra, no? Le immagini della Libia, dell'Iraq, dell'Afghanistan, ormai siamo abituati tristemente a queste immagini. Da un altro lato io comunque direi che c'è stato anche uno spostamento dell'interpretazione di questo conflitto, e nella mia opinione finalmente comunque sia si parla anche della dinamica internazionale che c'è dietro questo conflitto, della geopolitica internazionale che alimenta questo conflitto e anche delle contraddizioni che ci sono all'interno di questi gruppi di ribelli o queste milizie che comunque sia sono spesso finanziate dall'Occidente e armate dall'Occidente, e, cosa sulla quale, no, ci fa interrogare sulla autenticità di questo movimento e di questa ribellione, che chiaramente è un movimento ampio e con le sue contraddizioni e pieno di sfumature. Comunque sia, per ritornare alla questione di base, insomma, mi piacerebbe ricordare che giusto ieri c'è stato questo summit dei ministri degli esteri dell'Unione Europea, nel quale si discuteva la possibilità di togliere l'embargo alla Siria per poter armare questi gruppi ribelli, no? Queste milizie ribelli, delle quali ormai sappiamo con certezza, no? Diciamo che era uno degli scopi del nostro documentario, che si chiama appunto Siria, occupazione, rivoluzione o guerra santa. Cioè, questa era la domanda che noi ci ponevamo quando siamo andati lì, sull'onda di tutto quello che era successo nelle primavere arabe. Potremmo anche ricostruire un po' quella dinamica che poi era trapassata in forma di conflitto in Libia. Eravamo in una fase nella quale si stava cercando di proporre un intervento armato anche in Siria, per cui questa era un po' la domanda alla quale noi volevamo rispondere. Io direi che adesso, appunto, passato più di un anno, alcuni fattori sono più chiari, no? Perché alcune potenze internazionali, come appunto l'Inghilterra e la Francia, si sono decantate apertamente per armare questi ribelli, e questo ci fa, comunque sia, ci dà un'indicazione fortissima su quali sono gli interessi geopolitici che ci sono dietro questo flusso di armi. E addirittura, perché il 1° giugno sarebbe la data nella quale si deve ridiscutere a livello europeo l'embargo, no? L'embargo di armi alla Siria. Addirittura stanno pensando di, appunto, di togliere l'embargo per poter armare questi gruppi. Però una notizia che sembra positiva, no? In qualche modo, appunto in questo congresso di Dublino non sono arrivati a una posizione unanime, perché soprattutto Irlanda, Finlandia e Belgio si sono opposti nettamente a armare qualunque gruppo, perché solo potrebbe peggiorare il conflitto e la situazione del conflitto, cosa sulla quale io personalmente sono d'accordo. Non credo, cioè mi piacerebbe sottolineare che la nostra posizione, più là di posizione di, no, partidistica o comunque di schierarsi con un gruppo, è una posizione che chiaramente è in contra di qualunque avventura armamentistica, no, di armamento, ed è in contro di qualunque avventura o escalation di conflitto, per cui armare non può che essere una soluzione deleteria per qualunque nazione per qualunque situazione. Più che altro, secondo noi, quello che si dovrebbe proporre seriamente a livello internazionale è una mediazione per cercare un altro tipo di soluzione, non una soluzione mediata, una situazione che possa portare alla pace. Per cui, da un lato, ci sembra che questa conferenza con questo risultato, dove Francia e Inghilterra sono rimaste isolate, e poi, se volete, facciamo un excursus sopra gli ultimi eventi degli ultimi giorni, come il presunto utilizzo di armi chimiche, come è stato utilizzato per arrivare per preparare a questo summit, comunque sia, ci sembra positivo, no? Vuol dire che le posizioni, anche le posizioni più ufficiali, più grandi a livello nazionale, non sono più diciamo polarizzate come una volta, e comunque sia si sta cercando e si stanno esaminando altri tipi di soluzioni, non ultime dei quali l'intervento del BRICS, no? Assad qualche giorno fa, appunto, aveva chiamato il BRICS e Iran. Il BRICS, parliamo di questo gruppo di nazioni che sono Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, per cercare di trovare un'altra soluzione. Quindi parliamo di un equilibrio geopolitico mondiale che sta mutando fortemente, e Siria, più in là degli eventi interni che anche possiamo analizzare in profondità, secondo me è un po' con la cartina tornasole del cambio geopolitico mondiale che è in atto, e quindi lo stiamo vedendo con forza. Ecco, tu hai accennato molto anche in riferimento al documentario, ha fatto un anno e più fa, diciamo, agli aspetti dell'opposizione, ma anche del punto di vista della popolazione civile, e su questo poi, insomma, ha illustrato come l'opposizione si sia andata qualificando in un certo modo, e che poi rimanda a questi scenari di carattere geopolitico internazionale. Però la domanda che volevo farti è questa, proprio per esserci stato circa un anno e mezzo fa, quando, diciamo, non dico che la situazione era accettabile, ma non era così degenerata. Ecco, avete potuto riscontrare quali erano le ragioni interne, però originarie, delle rivolte contro Assad? Perché altrimenti qui sembra che l'opposizione ad Assad sia solo una cosa eterodiretta dall'esterno, insomma, no? Ovvero che se la fotografiamo adesso, probabilmente è la situazione che tu descrivi, certo. Ma diciamo in origine ha avuto anche altre motivazioni. Ecco, voi avete potuto riscontrare, trovare tracce, certo, di queste ragioni iniziali della rivolta contro Assad? Perché, insomma, il regime credo che abbia le sue responsabilità, insomma, no? Sì, tra l'altro, insomma, voglio aggiungere che questa è una questione, cioè la questione siriana e la questione comunque sia di tutte le guerre che si stanno sviluppando intorno a questa situazione, a queste rivolte, cioè le continuiamo seguendo, e quindi siamo aggiornati anche al giorno di oggi, no? Più là del fatto che il documentario abbia più di un anno e qualche mese fa, no? Quindi noi, diciamo, quello che abbiamo potuto vedere quando siamo andati, sicuramente queste rivolte e questa ribellione si è innestata su una serie di dinamiche chiaramente che non soddisfacevano le esigenze della popolazione. Prime fra tutti, e questo ci è sembrato un dato importante, una certa dinamica di liberalizzazione economica, quindi di peggioramento delle condizioni di vita, soprattutto del, chiamiamoli così, no, delle classi o strati medi e bassi della società siriana. E paradossalmente, questa è stata un'intervista che per esempio è stata illuminante con uno dei leader di uno dei partiti comunisti che sono appunto in Siria ci parlavano di questa apertura di Assad, che forse in alcun momento è stata pure un'apertura mirata a un riconoscimento geopolitico, entrare con più facilità nello scacchiere geopolitico e di politica internazionale, una certa apertura verso il Fondo Monetario Internazionale e a rispondere a certe direttive del Fondo Monetario Internazionale, che sappiamo che la Siria insomma sempre ha avuto una direttiva più o meno comunque sia non conforme a questo tipo di direttive, e anzi originariamente comunque sia una forma socialisteggiante di organizzare l'economia, con tutti i suoi difetti e con tutte le sue contraddizioni. Ora non voglio entrare troppo nei dettagli e chissà, meriterebbe uno studio a parte, no, a livello economico. Comunque diciamo che sicuramente negli ultimi anni un esempio che come sempre è perspicuo, è evidente, era stato l'aumento del prezzo della benzina e del prezzo del gasolio, che aveva generato una serie di proteste, per cui chiaramente sull'onda di queste rivolte che abbiamo chiamato che sono state chiamate le primavere arabe a livello di grandi mass media, si sono innestate una serie di rivolte e sicuramente alcuni errori o alcune forme di repressione che poi hanno generato questo. Ci sono alcuni episodi che comunque sia sono sempre episodi simbolici, no? Come l'episodio di Boulaziz che si diede fuoco in Tunisia, o insomma sono sempre fatti che comunque sia in se stessi servono a spiegare come si innescano queste dinamiche, però comunque sia servono a innescarle solo quando c'è una situazione reale, no, di malcontento e di problemi nella popolazione. Per cui anche lì ci sono stati questi episodi, soprattutto in Dara si parla, no, dei famosi arresti dei ragazzi che fecero le scritte, che sicuramente hanno generato un movimento per cercare di avere riforme e miglioramenti nell'assetto politico siriano. Però purtroppo poi questa forma e queste rivolte sono degenerate rapidamente, o almeno questa è stata la nostra sensazione. E se in quel momento, per esempio, cioè parliamo sempre appunto di un anno e qualche mese fa, già vedemmo che c'era una grande polarizzazione della società civile, una grande parte della società civile che comunque sì avrebbe preferito una soluzione immediata del conflitto e non quello che stava succedendo. Per quello che noi riceviamo, siamo molto in contatto con attivisti e con persone, con società civile che lavora lì nel territorio siriano, oggi secondo me possiamo dire che la maggioranza o la stragrande maggioranza della società civile siriana, quello che più sta desiderando è che il conflitto si fermi, ci sia una soluzione immediata, ci siano eventualmente anche riforme e cambiamenti, che voglio ricordare comunque sia il governo siriano e Bashar al-Assad ha proposto una serie di riforme che sono state approvate anche con un referendum, e poi sicuramente si può discutere, si possono migliorare, potrebbero essere proposte di maniera più efficace. Però comunque sia, oggi secondo me quello che la società civile, che i civili siriani vogliono, è che questo conflitto, che è assunto in alcune zone della Siria veramente c'è una forma di guerra civile, di distruzione totale, si fermi e possano cominciare a ricostruire la loro vita chiaramente, no, in pace e nel modo migliore e più sostenibile possibile. Sono state insomma evocate già tante questioni, no? Da una parte c'era la questione geopolitica internazionale che ha evocato inizialmente, poi le ragioni appunto invece della rivolta interna, magari due o tre riflessioni. Per quanto riguarda la geopolitica internazionale, effettivamente l'incontro che tu evocavi è in realtà un passo di un percorso che comunque gradualmente ha portato e porterà alla fine dell'embargo per importare armi. Se pensiamo anche all'incontro che c'è stato a Roma qualche tempo fa, dove si cominciava già a ventilare l'ipotesi di sbloccare degli aiuti per i ribelli, sottolineando che fossero appunto non aiuti armati. Da lì appunto al passo che c'è stato invece qualche ora fa sul ventilare l'ipotesi appunto anche di un armamento di queste fazioni ribelli, insomma il passo è stato molto molto breve e ci sarà un'accelerazione da questo punto di vista. Certo è che però all'interno, e questo in riferimento al contesto internazionale, all'interno poi delle varie fazioni che vogliono essere supportate dalle potenze delle potenze europee, ma non solo, insomma anche lì vi è un conflitto forte, e forse quelle dissidenze o quelle frizioni di cui tu parlavi sono in realtà emblematiche indicatrici di un conflitto che ci sta poi tra differenti potenze per avere la meglio sul processo, insomma sul post Assad, no? Se pensate appunto al Consiglio Nazionale Siriano, al nuovo Consiglio Nazionale che è stato costituito dagli Stati Uniti, e poi pensate al fronte, diciamo, curdo, in parte sostenuto dall'esterno, in parte no, alle attese di Israele, che invece vuole fare di tutto per evitare la costruzione di un governo islamista all'interno del paese. Quindi io non so quanto tanto sia positivo. Sicuramente è positivo perché si evita la polarizzazione, però allo stesso tempo poi qui se si crea veramente più fronti che reclamano un tipo di processo di transizione diverso per la Siria, lì il conflitto non penso che finirà, insomma, perché anche il coinvolgimento dei paesi BRICS, come tu dicevi, da parte di Assad, a mio avviso, io lo percepisco personalmente come la diversificazione della propria dipendenza all'esterno, nel senso, se prima ci potevano essere due o tre potenze che gestivano, non dico le sorti, quantomeno il finanziamento di un processo di transizione, adesso, insomma, se ci aggiungi pure i BRICS con appunto Sudafrica, Cina, Russia, Brasile, insomma, e così via, la situazione si complica. A me sembra che questo porterà ad una, non tanto ad una, a trovare una soluzione nel breve periodo, quanto ad allungarla, perché poi le pretese aumentano. Poi dal punto di vista invece delle ragioni interne, l'accettazione delle direttive del Fondo Monetario Internazionale da parte di Assad sono, a mio avviso, il frutto appunto poi di una politica socialisteggiante del partito Baath, che è andata logorandosi nel corso del tempo, e come in altri paesi, anche se appunto con un ritardo rispetto all'Egitto o alla Tunisia, ha portato a un impoverimento sostanziale della popolazione. Quindi alla base, in Siria come negli altri paesi, vi sono delle ragioni sociali. Su questo, insomma, penso che siamo tutti d'accordo. La situazione si complica perché a differenza di altri paesi, dove in Egitto, in Tunisia, vi era un regime supportato da potenze occidentali in maniera molto molto chiara, e una popolazione che a poco si è sollevata e che ha trovato queste diplomazie impreparate, queste diplomazie non sono sembrate affatto impreparate, per esempio per il caso libico o comunque per il caso siriano, o meglio, hanno tentato comunque di attivarsi secondo le loro logiche. Il problema oggi è comprendere, in questo marasma di coinvolgimento, di supporto dall'esterno verso l'interno, se ci sono dei fronti che possiamo noi supportare anche dal punto di vista dell'opinione pubblica, perché poi la questione è, si parla di leghe di quartiere, per esempio, i comitati di quartiere, che almeno nei mass media, diciamo mainstream, vengono definiti come delle opposizioni che fanno una resistenza all'interno delle città, sono una resistenza piuttosto laica, piuttosto secolare, non tanto controllata dal movimento, comunque dai movimenti, dalla galassia islamista, e che non si sa a chi, tra virgolette, rispondono dal punto di vista della logica di azione proprio nei confronti della rivolta contro Assad. C'è poi l'esercito siriano libero, che sembra invece dominato dagli islamisti, vi è poi il Partito Democratico di Unità Curda, che praticamente di Unità Democratica, che sarebbe praticamente il braccio politico dei curdi in Siria. In questa ottica, riuscire a trovare la matassa per capire, insomma, quale sarà poi l'esito di questa resistenza o di queste resistenze, insomma, mi sembra ancora più complicato. Poi sulle riforme approvate da Assad, a me sembrano molto, assomigliano molto alle riforme fatte appunto in Marocco, insomma, quando sono scoppiate le prime manifestazioni e le prime contestazioni di massa sull'onda delle primavere arabe, no? Sono riforme che, a mio avviso, cercarono di tappare le ali ad un processo di contestazione che comunque pensava Assad di poter controllare attraverso delle piccole riforme. In Marocco ci è riuscito, ad Assad non è riuscito, anche perché appunto vi è un coinvolgimento internazionale sicuramente maggiore. Quindi nel tuo documentario, che naturalmente appunto è di un anno e mezzo fa, e fornisce secondo me delle chiavi importantissime per l'interpretazione del conflitto dell'ormai guerra civile in Siria, perché per me è una guerra civile. Se tu dovessi fare una seconda parte del documentario, insomma, l'analisi di questa parte, cioè l'analisi dei conflitti interni rispetto ad una unità di lotta che non sembra sia, appunto, non sembra ci sia adesso in Siria, quale potrebbe essere, no? Sì, tra l'altro ti dico, mi piacerebbe molto fare questa seconda parte, cioè ci piacerebbe molto fare questa seconda parte del documentario, e probabilmente, insomma, spero che potremmo che potremmo farla breve. E cioè, secondo me bisogna mettere, molto importante vedere il marco, perché di nuovo questa, vedere il quadro, no, di questo conflitto, cioè, questo è anche uno, dei metodi, dei mezzi di comunicazione di massa per analizzare questo conflitto, cioè avvicinarci, fortemente al, diciamo al contesto nazionale o al contesto interno e a sta regionale, a sta interreligioso, di cui se volete anche potremmo parlarne, però non vedere il quadro internazionale, cioè quello che dicevi tu del coinvolgimento del BRIC. Io in questo discrepo totalmente, nel senso che vedo estremamente positivo, perché lo vedo come un'indicazione di fondo su quello che sta succedendo nel mondo, cioè nel mondo, gli Stati Uniti e l'Europa, con tutte le conseguenze anche che noi possiamo avere interne e che conosciamo molto bene e molto da vicino, sta perdendo questa egemonia economica militare che noi abbiamo vissuto negli ultimi, diciamo sicuramente dalla seconda guerra mondiale in adesso, con queste caratteristiche, dico, perché sennò potremmo risalire e potremmo dire che viene da sempre, no? Se vediamo il fuoco dall'Europa. Per cui questi coinvolgimenti, secondo me, al contrario, sono estremamente positivi, e dobbiamo ricordare un po' quel quadro, del conflitto che si sta sviluppando in Siria. Cioè, siamo di fronte a un quadro, nel quale possiamo dire che stiamo assistendo al fallimento totale della politica che aveva impulsato Occidente, gli Stati Uniti, Europa e gli alleati, e gli alleati locali, che in questo caso sono principalmente Turchia, Qatar e Arabia Saudita. Per cui fronte a questo fallimento, chiaramente, prendono la parola altri attori, altri protagonisti a livello internazionale, che in questo caso sono stati appunto principalmente finora, Iran, la Russia, eventualmente ora i paesi del BRIC. A me sembra fortemente positivo che stia avvenendo questo tipo di trasformazione del conflitto, no? E questo, secondo me, è il quadro che noi dobbiamo avere chiaro, rispetto a quello che sta succedendo. Già ne parlammo in un'altra trasmissione, questo attacco che sta subendo la Siria da più lati è un attacco che mira anche a cercare di togliere potere e forza all'Iran, è un attacco che anche, sta mirato al Libano e soprattutto alla parte sud del Libano con Hezbollah, e ha un senso anche nel, ridare forza e rivitalizzare, quella che è la politica di Israele nell'area. Come dicevi tu, è vero che c'è una parte, forte dell'opinione pubblica e anche politica israeliana che è contraria a che si instauri un governo islamista in Siria, però Siria è sempre stato un problema, geopolitico siriano importantissimo, e sicuramente negli ultimi giorni, no, si parlava dell'accordo tra Obama e Netanyahu per, dare il via a un possibile attacco, intervento militare diretto incontro della Siria, perché potrebbero avere molto interesse, cioè in Israele è un grande interesse a che, cambi l'assetto e gli interessi geopolitici siriani, che finora comunque sia sempre hanno costituito un corridoio e una comunicazione molto importante tra Hezbollah nel sud del Libano e l'Iran. Questo a livello internazionale, no? Cioè, secondo me non dobbiamo mai dimenticarci questo. E una cosa molto importante, mi dicono, si sente bene, no, ora la voce, perché chissà, mi era allontanato un poco dal microfono. Una cosa importantissima, cioè dobbiamo ricordarci, esattamente qual è la fase, cioè stiamo in una fase, di crisi economica, fortissima, soprattutto nei paesi appunto occidentali, chiamiamoli così, occidentali, Stati Uniti, Europa, e sappiamo che una delle risposte alla crisi economica da sempre è stata la guerra. Qualche mese fa, da pochi mesi, è uscito un articolo di un analista molto vicino a Washington, e si chiama Scriff, che è che coordina una pubblicazione, un gruppo, uno di questi famosi think tank statunitensi che lavorano appunto sull'economia globale. Quello che andate a cercare si chiama Pacific Algo, non ricordo neanche bene dove l'avevo segnato, sì, coalizione. Bueno, comunque non ricordo, è uscito questo articolo di Scrift, dal titolo, secondo me chiarissimo, perché non un'altra guerra mondiale? Perché c'è una parte, appunto occidentale, o comunque sia degli Stati Uniti, che pensa che la soluzione a questo nuovo assetto geopolitico che si sta disegnando, in cui sta perdendo egemonia economica e militare, appunto possa essere la guerra mondiale, come lo fu nel 45. Per cui si sta proponendo tutta un'escalation in questo senso, e non è una casualità che Inghilterra e Francia a livello europeo siano diventati portavoci di una direzione, di una politica che è appunto una politica per il riarmo, per la produzione di armi, e per cui il settore, anche a livello economico, no? Il settore armamentistico prende il sopravvento e governi in qualche modo questa fase economica e politica. Nella mia opinione, nell'opinione che mi sono fatto, Siria purtroppo è un pezzo, no? di questo scacchiere in cui si sta giocando proprio la sopravvivenza di Occidente come potere egemonico a livello mondiale, e nel quale l'unica soluzione sembra la guerra, per cui facilmente in questa maniera spieghiamo anche quello che è successo in Libia e quello che sta succedendo ora in Mali, dove Francia ha preso un po' quel sopravvento, e dove, se analizziamo negli ultimi, cioè dagli anni 70 in avanti, io che stavo seguendo un po' la situazione di Mali, la Francia ha avuto più di 40 interventi militari, ora andando un momento all'Africa, no? Per cui secondo me è molto importante mettere nel quadro questo conflitto, cioè non vederlo solo come un conflitto interno, non vederlo solo come un conflitto dove dobbiamo migliorare tra virgolette la situazione della vita di alcune parti della popolazione siriana, ma bensì, cioè, non dobbiamo perdere il treno, comunque sia il momento storico, per capire che qui siamo di fronte a una trasformazione che ha diciamo un'invergatura, un quadro, una forza molto più grande. Stiamo parlando di equilibri mondiali completamente connessi con il programma, per esempio, militare statunitense. Cioè non è una casualità che in questi giorni si sta parlando del programma dei droni, del programma di riarmi. Siamo arrivati a un presupposto statunitense per l'armamento che, insomma, si parla nel 2012 di 700 mil milioni di dollari. Non siamo mai arrivati a cifre così incredibile, così alte, e secondo me questo è il quadro in cui lo dobbiamo mettere come persone e come attivisti e come società civile. Chiaramente penso che su questo non abbiamo nessun dubbio, in contro della guerra e per costruire un mondo che sia sostenibile, no? E quindi una pace che sia vera e con giustizia, chiaramente, perché non possiamo fare la pace se non c'è giustizia, no? Io su questo mi piacerebbe, insomma, magari riuscire a entrarci più nel merito su questi aspetti che delineavi, perché capisco quello che tu vuoi dire quando dici giudico positivamente l'entrata in scena dei BRICS, nel senso che rispetto a un mondo bipolare o tripolare, insomma, più o meno definito, usciamo da un mondo bipolare, ne stiamo uscendo, ne siamo usciti, non lo so, insomma, comunque quel mondo tipicamente bipolare non c'è più, si vanno delineando altri scenari che non sono del tutto chiari ancora. In questi scenari viene fuori una compagine rappresentata dai BRICS in sigla, diciamo così, che dice la sua in qualche modo, no? Quindi non è più solo l'affrontamento est-ovest, anche se riposizionato non più sull'Unione Sovietica ma sulla Russia di Putin, ci sono altri attori, e questo dal tuo punto di vista, considerando, insomma, nell'ambito dello scenario peggiore che è una nuova guerra mondiale, ha indubbiamente il suo peso. E forse, come dici tu, anche un peso di carattere positivo per quello che può riguardare nel caso specifico la Siria. A questo punto diciamo allora che la Siria è un incidente, casualmente è capitata in questo scenario. Se capitava prima magari non succedeva questo, non lo so, no? Potremmo anche dirla così. Il problema però che io vedo è questo: se da un punto di vista della geopolitica internazionale è positivo che ci siano altre voci, diciamo, rispetto a questo mondo bipolare che si è affrontato più o meno freddamente, più o meno caldamente a seconda dei periodi, è anche vero che nel caso specifico della Siria, ma potrebbero essere altri stati, la Libia, potrebbe essere successivamente il Mali o addirittura il Niger, significa che gli stati nazionali non contano più, cioè che i popoli, se possiamo parlare in senso vago dei popoli, non hanno più voce in capitolo di autodeterminarsi, perché anche noi in qualche modo andiamo ad accettare che l'ordine generale delle cose è demandato a, diciamo, i potenti della terra, insomma. Quindi io qui mi trovo di fronte a una contraddizione, perché poi c'è una situazione interna, no, in tutti i casi, c'è in Libia, c'è in Marocco, c'è in Egitto, c'è in Mali, c'è in Siria, in alcuni casi riusciamo a leggerla più chiaramente, come in Egitto e in Tunisia, per esempio, dove riesci a vedere anche un conflitto tra le classi, insomma, no? Vedi una componente non solo laica rispetto ai problemi religiosi, ma anche legata al mondo del lavoro, a un mondo di povertà, insomma, classi sottomesse, strati sottomessi che tentano di emanciparsi, ribellarsi e così via. E lì è più facile, però tutto questo non esclude che comunque le necessità dei popoli ci siano da tutte le parti, e se noi accettiamo che, per quanto buoni tra virgolette, i BRICS siano gli arbitri della situazione, facciamo un vulnus a noi stessi, al nostro modo di pensare in qualche modo. Io aggiungerei pure il fatto che concordo pienamente sul fatto che comunque il contesto geopolitico internazionale è dirimente nella comprensione di un conflitto come quello siriano. Però dobbiamo anche un attimo noi fare autocritica, noi dico noi in Occidente, perché se pensiamo veramente all'analisi che abbiamo fatto noi del mondo arabo e medio orientale negli ultimi 30-40 anni, causa anche dei regimi che c'erano, noi abbiamo parlato quasi esclusivamente di geopolitica internazionale, cioè noi non ci siamo occupati dei fenomeni di organizzazione e di mobilitazione che stavano all'interno, perché in parte avevamo un filtro che era quello di regimi che per 30-40 anni erano lì e sembravano cioè immobili, dei leviatani immobili, dove sotto non si muoveva niente. Questo lo dico sia per quanto riguarda gli studi di carattere accademico che per quanto riguarda i reportage di carattere giornalistico. Molto pochi, al di là, e penso veramente al caso palestinese e a pochissime altre eccezioni, molto poche sono state le analisi che hanno tentato di concentrare la loro attenzione sui fenomeni di aggregazione che si sono sviluppati nel mondo arabo. La composizione sociale. Composizione sociale. Se pensate che le rivolte che in Egitto, che oggi sembrano sulla bocca di tutti, Amal el Kubra del 2004, 2005, 2003, la rivolta di Gafsa in Tunisia nel bacino minerario nel 2008, sono cose che sono emerse oggi a posteriori per legittimare o rintracciare una genealogia delle rivolte in questi paesi. Quindi la nostra carenza da questo punto di vista, secondo me, non è stata tanto dal punto di vista dell'analisi del contesto internazionale, dove sicuramente ci sono delle variabili oggi che non c'erano in passato, ma quanto su quei fenomeni di aggregazioni che comunque in altri paesi, forse non è il caso della Siria, io non lo posso dire perché non ci sono mai stato durante questi mesi di rivolta, ma in altri paesi hanno determinato e hanno scosso anche la geopolitica internazionale. Allora forse è il caso che noi stessi in primis ci mettiamo un attimo a cercare le ragioni delle mobilitazioni, e anche quando queste vengono scavalcate da un contesto internazionale che diventa opprimente, perché penso alla Siria ma penso anche allo Yemen. Abbiamo fatto delle corrispondenze qui anche grazie a delle testimonianze di yemeniti che ci hanno spiegato come da una rivolta e da uno spontaneismo iniziale si è poi arrivati ad una guerra tra clan, una tribalizzazione della rivolta che poi ha portato lo Yemen a non sentirsene più parlare. Noi per primi qui abbiamo descritto come in Algeria le prime insurrezioni, se vi ricordate, dell'Algeria si parlava subito dopo la Tunisia, doveva essere la nuova primavera araba, come veniva definita, no? E invece come è stata schiacciata da un governo che, grazie a e ha delle risorse infinitamente più grandi rispetto a quelle che avevano i regimi tunisino ma anche egiziano, è riuscito a schiacciarla, e oggi ancora si è ad uno stato di crisi economica e sociale fortissimo in Algeria e nessuno ne parla. Quindi è assolutamente importante comprendere il contesto geopolitico internazionale, come spesso abbiamo fatto. È altrettanto importante, sicuramente più difficile, capire le dinamiche interne di alleanze e di come dire, conflitto che comunque si producono all'interno di questi paesi, perché altrimenti, se pensate alla crisi libanese, alla guerra civile in Libano che è durata per 15 anni, se noi oggi non riuscissimo a comprendere anche quelle dinamiche interne che hanno portato a determinati tipi di alleanze con Israele, non riusciremo a comprendere quella guerra civile e le conseguenze anche a livello internazionale che ci sono state. Quindi questa era una piccola riflessione riguardo alle analisi che si sono state fatte, che comunque prendono spunto dal documentario, che vale la pena. Io volevo fare un'altra domanda a Flavio, insomma, così la pongo come questione per tutti. immaginiamo che a fin di bene, mettiamola così, la diplomazia internazionale subentri, cioè la voce della diplomazia subentri alle armi, esemplificato, banale, ma insomma per capirci, e Assad se ne deve andare. Cioè, questo credo sia un punto che dovrebbero accettare tutti quanti. O tu, insomma, che cosa tu hai potuto capire, qual è il tuo punto di vista su questo? Perché se dovessimo rifare la storia comunque di quel paese, è certo che da un socialismo iniziale, insomma, perché io ho visto pure l'IMES, no? Fa questo approccio, dice non consideriamo la situazione, faccio sta breve parentesi, dal punto di vista etnico, ma politico economico. Poi vai a vedere, viceversa, dei politici non ti dice niente, perché sorvola pienamente su tutta la battaglia che ci fu a sinistra in Siria proprio negli anni 50-60, in cui maggioritari erano sia il Partito Socialista che anche quello comunista, che però alla fine venne fuori questo strano contesto che si chiama Baath, in cui la componente più di sinistra fu minoritaria, eleggendo il primo Assad Hafez, no? Nel 70 e così via. E però la componente più di sinistra proprio rimase insediata in quelle parti rurali e periferiche rispetto alle città, che più di tutti poi hanno sofferto delle politiche del regime, perché poi una volta insediata Assad è rimasto in piedi con l'appoggio sovietico, che poco da fa, ha cancellato parecchio o ha dirazzato completamente, a seconda dei punti di vista, da quelle che erano certe impostazioni originarie, e poi il figlio ha fatto il disastro finale, insomma, accettando in pieno le liberalizzazioni e così via. Quindi come si fa, voglio dire, a uscirne da una situazione del genere, insomma, invocando la pace e non la guerra, e quindi le diplomazie, se le stesse diplomazie, non tutte, anche la parte buona, non guerrafondaia, non ha ben capito che comunque questo personaggio deve andare via, insomma. Sì, guarda, io ti dico, questa chiaramente la mia opinione, e credo che questa è una valutazione che spetta completamente al popolo siriano, cioè non credo che completamente deve essere il popolo siriano a... Scusa la battuta, però se fino adesso abbiamo detto che so i BRICS, che la diplomazia internazionale eccetera, poi gli damo sta palla al popolo siriano. No, cioè, secondo me dobbiamo distinguere, c'è un contesto internazionale sul conflitto, nel quale secondo me l'ingresso dei BRICS è interessante, primo perché denota un cambiamento profondo delle dinamiche geopolitiche mondiali, no? E questo, visto l'internazionalizzazione e l'importanza mondiale di questo conflitto, cioè come si sta muovendo nello scacchiere internazionale. E dall'altro lato, secondo me, dobbiamo ricordare, cioè, che è completamente una questione interna, e io ritorno a ricordare, cioè, per me il principio di non ingerenza in una questione interna è fondamentale, no? Per cui su come loro debbano evolvere e come debba cambiare lo scenario interno e politico, mi sembra che deve essere qualcosa che deve essere completamente nelle mani del popolo siriano. Chiaramente stiamo parlando di una situazione ideale che oggi purtroppo non c'è da nessuna parte, perché già sappiamo che sono intervenute tutte queste potenze internazionali, e quindi per il momento dobbiamo visualizzare questo conflitto come in due frontiere, no? Una frontiera internazionale, geopolitica internazionale, e anche una frontiera interna, che però sono completamente legate. Oramai, e questa è la mia opinione, però proprio senza dubbio, si è disvirtuato completamente, cioè il fronte interno, tu prima parlavi, no? Di comitati di quartiere, io personalmente lì non ho potuto riscontrare questa forza positiva e questa forza autentica dell'opposizione. Più che altro ho incontrato molta opposizione che dopo mesi di lotte si era assestata per appoggiare il governo di Assad e quello che c'era in contro dell'ingerenza internazionale. Per cui secondo me questo è un po' quel panorama. Chiaramente, se noi stiamo cercando, perché ci piace e perché chiaramente lo cerchiamo sempre, una prospettiva di classe reale che noi possiamo appoggiare, secondo me in questo momento in Libia ci sono delle difficoltà in Siria ci sono delle difficoltà forti a incontrarle, e secondo me in questo momento l'analisi, questo ripeto, è sempre la mia opinione, insomma chiaramente con moltissime altre persone nel mondo, dobbiamo fare più un'analisi su quello che sta succedendo rispetto alla guerra e all'imperialismo, e quindi evitare assolutamente questa politica di ingerenza e questa politica che utilizza i civili e le rivolte interne dei civili per alla fine per ottenere quello che è più comodo a un certo tipo di orientamento politico, no? A livello mondiale. Cioè io questo lo vedo chiarissimo, cioè un'alternativa a questo in questo momento non lo vedo, per cui di nuovo, no, giustifica l'intervento del BRIC. Tutto il discorso che a me personalmente mi interessa moltissimo, cioè non facciamo finta che non ci interessi, il discorso sulla classe, sul cambio reale di tutto l'equilibrio mondiale, quello è un discorso che ci dobbiamo porre tutti, qui, noi, là, loro e da tutte le parti del mondo. Cioè io appunto, che sto seguendo pure la questione del Mali, sono stato parlando con attivisti e comunque sia con persone che genericamente, diciamo, no? Perché poi tutti abbiamo molte sfumature e molte differenze, potremmo chiamare compagni in Mali o opinioni di persone che mi hanno riferito di compagni in Mali, di gente che lavora comunque sia lì, alcuni dei quali sono arrivati alla posizione di dire no, meno male che sono arrivati i francesi perché ci avevamo i fondamentalisti a 2 metri da casa nostra. Io da un lato capisco la tragedia umana che possano vivere, però da un altro lato secondo me la riflessione che noi dobbiamo fare tutti, noi qui in questo momento di crisi economica, loro in Mali e in Siria, qualche tipo di opposizione che avesse voluto migliorare realmente la situazione, e che purtroppo ci stanno prendendo impreparati e che non sono preparati, perché se veramente questi compagni che stanno in Mali avessero lavorato bene, chiaramente fare così la storia è molto relativo, però insomma possiamo dirlo, no? Se avessero lavorato bene, mai avrebbero dovuto aver bisogno dell'intervento dei francesi, contro il quale, lo voglio dire pure per non lasciare nessuna sfumatura, io sono completamente contrario, perché sono completamente contrario a qualche tipo di ingerenza e di avventura militaristica. Non potrà portare niente di buono neanche per tutte le nostre lotte di classe per costruire un mondo migliore, no? Per cui di nuovo, con i se e con i ma non facciamo la storia, però in Mali come in Siria e come in Libia, cioè se ci fosse stato un movimento che veramente avesse potuto criticare e con forza reale da sinistra, che avesse potuto creare dei miglioramenti, l'avrebbe dovuto fare da loro stessi, non chiedendo l'appoggio degli Obama o dei Cameron o degli Hollande di turno, perché questo veramente secondo me è il fallimento di una politica di classe, di una politica diciamolo, no? Visto, cioè siamo qua, diciamolo, rivoluzionaria, che veramente può cambiare qualcosa, perché purtroppo e tristemente io l'opinione che mi sono fatta, e me la sono fatta in generale non solo purtroppo su Libia, Siria e Mali, ma su molte delle dinamiche che stanno avvenendo a partire dalle primavere arabe, purtroppo si finisce aiutando un tipo di sviluppo economico e sociale che ha molto a che vedere col modello che noi dico così, insomma, per darci un'idea, noi occidentali stiamo esportando, che appunto è il capitalismo in tutte le sue sfaccettature, in più sempre più selvaggio e sempre più orientato alla disintegrazione delle integrità nazionali e sfruttamento delle risorse, esattamente, e al dominio delle multinazionali. Appunto, lo sfruttamento di risorse, elemento del quale finora ancora non abbiamo parlato, ma che per esempio in Mali e Libia, certo, è evidente proprio, cioè il progetto qual è. In Siria meno, perché non hanno, in Siria è molto di più il fattore geopolitico. Però io ripeto, cioè, secondo me noi purtroppo siamo chiamati, con tutte le difficoltà del momento, vista la debolezza di tutto quello che abbiamo costruito in questi anni, cioè siamo chiamati da un punto di vista di classe e da un punto di vista di progetto di miglioramento del mondo, e alla fine comunque sia rivoluzionario, cioè non possiamo né lontanamente appoggiare le avventure armamentistiche, comunque sia le avventure imperialiste degli Stati Uniti o della potenza occidentale di turno, che in più sta vivendo una situazione di agonia rispetto a quello che è il mondo in questo momento, e per cui devono proporre questo tipo di guerre che sono sempre più più pazzesche in qualche modo, no? E non abbiamo ancora parlato di tutto quello che si sta sviluppando poi dall'America Latina, quello che è passato con Venezuela, con Cuba, con l'Alba, cioè voglio parlando no, della geopolitica mondiale come cambia, cioè loro anche hanno moltissimo da dire, e io invito tutti i compagni, no, che ci stanno ascoltando, cioè non sarà una casualità che gente come appunto Chavez, che ora appunto è morto da poco, o che governi come quello di Venezuela, e ognuno poi può riflettere su quanto si senta vicino a quel tipo di esperienza, cioè, più o meno. Io pure, chiaramente, io sempre, cioè, e lo voglio dire, cioè, a me il progetto che mi fa piacere, che mi accontenta, ancora lo devo vedere, cioè, il progetto che io sposerei al 100%, e dico: ah, che bello, abbiamo instaurato, cioè, il non sfruttamento, abbiamo instaurato che finalmente la gente possa fiorire per quello che è, lavorando di una maniera appunto non sfruttata, che abbia il tempo libero, che possa progettare. Ma il sol dell'avvenire ancora non è ancora sorto. Appunto, dobbiamo lavorare molto. Però non, secondo me, e almeno questo è il mio invito, ed è l'invito appunto dei compagni che stanno, che organizziamo il dibattito oggi e che abbiamo fatto questo documentario, cioè non ci dobbiamo fare illusioni che questo possa essere un progetto che aiuta esteriormente Obama, che 2 giorni fa appunto stava parlando con Abdullah II in Giordania, dicendo che appunto Siria la dobbiamo schiacciare, che fanno appunto il programma di droni, che fanno questo tipo di proposte, cioè che sono proposte estremamente offensive anche per il buon senso stesso che loro propongono, cioè che queste potenze occidentali propongono. Mi sembra super offensivo pensare di poter togliere un embargo che loro hanno difeso a spada tratta per moltissimi anni per armare un gruppo di ribelli che poi, tra l'altro, e questo ormai lo ammettono gran parte dei mezzi di comunicazione di massa, cioè ci sono moltissimi fondamentalisti islamici che sono gli stessi gruppi terroristi che poi comunque sia dopo andremo a combattere, perché appunto siamo entrati in una fase di tale agonia del capitalismo come lo conosciamo, che deve inventare qualche tipo di maniera per uscirne fuori e per sopravvivere, no? Per cui secondo me là, come nostra analisi di classe, cioè scordiamoci che possa venire fuori qualcosa da là con l'aiuto di assolutamente di queste persone, insomma, voglio dire, no, cioè, voglio ricordare pure un altro episodio, perché sempre, cioè, partiamo dall'attualità, mi sembra ieri o l'altro ieri, Wall Street Journal, cioè quindi parliamo di un giornale completamente mainstream e allineato, ha ammesso che ci sono gli agenti della CIA che stanno entrenando, e lo potete andare a vedere, insomma, uno pone Wall Street Journal CIA 2 giorni fa, sì, che stanno allenando, sta cominciando a uscire un po' ovunque. Sì, però voglio dire, ora lo dice il Wall Street Journal, cioè la CIA sta allenando questi gruppi di ribelli a livello militare. Io ora invito tutti, cioè pensiamo, se la CIA, se qualcuno pensa che la CIA possa aiutare un progetto che sia veramente libertario, veramente di miglioramento di vita del popolo siriano, io veramente, secondo me, cioè, guardiamo tutta la storia della CIA e che tipo di progetto hanno appoggiato finora, cioè lo sviluppo in tutto il mondo di un modello unidimensionale che è quello degli Stati Uniti, gli sta venendo muy male, perché il capitalismo nella sua dinamica, chiaramente, in mia opinione, per come si sta sviluppando, preferisce hasta che non ci sia un solo centro di potere, che il centro di potere è, invece preferisce che si possa sfruttare nello stesso modo in Cina, nello stesso modo insomma, sì, che, diciamo, poi queste sono altri temi geopolitici, no, pure delicati, ora parlare di Cina, d'accordo, sarebbe aprire un gran vaso di Pandora. Rabbrividisco però al pensiero proprio qua stiamo a parlare di fantapolitica, però rabbrividisco al pensiero di un intervento per dirti della Cina e Medio Oriente come lo sta facendo in Africa, insomma, perché comunque là sicuramente ha delle dinamiche diverse dal punto di vista dei toni, sicuramente anche dal punto di vista del conflitto militare, perché non è, ecco, la Cina non è molto importante, avvezza, non ti so, cioè, a livello militare, sì, chi interviene? Sì. Occidente? Infatti, la NATO? La Cina da questo punto di vista ha un modello di penetrazione, di sfruttamento che è, diciamo, tra virgolette inedito, perché passa per l'acquisizione diretta quasi, insomma, almeno così è successo e sta succedendo, no, in Africa. C'è stata la questione dell'acquisizione delle terre all'interno di molti appunto regimi autoritari nella parte appunto subsahariana soprattutto, quindi una penetrazione economica invasiva molto diversa rispetto a quella proposta dall'Occidente, soprattutto dalle potenze appunto dell'Europa occidentale e Stati Uniti, ma che comunque è altrettanto dannoso, insomma, perché comunque se è vero che se dobbiamo parlare di ingerenza, insomma, e di evitare ingerenza, anche questa è un'ingerenza, insomma, altrettanto dannosa, soprattutto proprio nello sfruttamento delle risorse. Poi appunto non è che noi stiamo a elogiare il contesto, almeno io personalmente, i contesti nazionali, però sicuramente la sovranità sulla terra, insomma, di chi la abita, insomma, penso che sia abbastanza acquisita. Non so se volete aggiungere qualcos'altro da questo punto di vista. No, forse un ultimo aspetto, tu prima hai accennato questo proprio più di cronaca che altro, ma insomma importante in ogni caso. Hai accennato al discorso delle armi chimiche. A me mi è capitato giorni fa di un reportage dell'Espresso, se non sbaglio, mi sembra sì, era dell'Espresso, in cui insomma documentava abbastanza, secondo la cosa, questo impiego di armi chimiche da parte del regime di Assad, e soprattutto bambini con ustioni particolari, piaghe che non si riuscivano a rimarginare, eccetera, trasportati in ospedali anche fuori della Siria e così via. Ecco, tu in proposito, sì, che tipo di idea, diciamo, sono fatto, sì, di approccio, di sensazioni, sì, hai, sì, avuto di verifica, insomma. Guarda, è un tema che è molto caldo, è molto, cioè, lo abbiamo toccato appena qualche giorno fa, no? Il 19 si è prodotto, suppostamente, perché ancora non abbiamo conferme certe da nessuna parte, sembra che le Nazioni Unite lo stanno indagando, Ban Ki-moon è anche uscito su questo tema. Si è prodotto per la prima volta il 19 di marzo vicino a Aleppo un presunto primo attacco con armi chimiche, no? Il che ha scatenato tutta una serie di interventi, tutta una serie di reazioni, e chiaramente cioè, ricordiamo un momento, io mi sono fatto l'idea, il primo gruppo a uscire, cioè il primo intervento è stato l'intervento stesso del governo siriano, che nella persona del suo ministro degli esteri ha chiamato alla società, diciamo alla comunità internazionale, interviene su questo punto, perché presuntamente sono stati questi gruppi di ribelli o di milizie a usare le armi chimiche. Ora, io l'idea che mi sono fatto, per quello che si può vedere, per la traiettoria del proiettile che pare che abbia portato queste armi chimiche, pare, perché ancora lo devono confermare con certezza, ma sembra che per la prima volta effettivamente si siano usate, per la traiettoria di questo proiettile, per dove è caduto, che è una zona controllata nel governo, no? Ha creato tristemente 25 morti, per i testimoni presenziali che finora si sono che hanno rilasciato interviste in vari canali internazionali, insomma, che io sono stato seguendo, però soprattutto, secondo me questo è fondamentale, per il veramente zero e poco interesse che può avere il governo siriano a utilizzare le armi chimiche, perché le armi chimiche sono state messe come, diciamo, la frontiera, no? come la condizione per l'intervento immediato. E mi sono fatto l'idea che il governo siriano non la utilizzate, perché appunto non ha nessuna convenienza in questo, molto di più avrebbe convenienza per scatenare qualche tipo di conflitto. Sembrerebbe molto dubitabile, dice, cioè come vanno a utilizzarlo loro stessi, però siamo in una situazione di tal confusione e marasma a livello di opinione pubblica internazionale, che nel momento stesso che si è parlato dell'utilizzo di queste armi chimiche sono saliti uno dopo l'altro il comandante dell'EUCOM, cioè della parte della OTAN per l'Unione Europea, cioè che Stravidiris, è salito immediatamente dicendo che la NATO eventualmente è disponibile a fare un intervento rapido come si è fatto in Libia. Alle poche ore è salito addirittura il senatore repubblicano Graham, che sta diventando tristemente una figura rilevante perché non ha nessun cargo nel governo statunitense, però si sta trasformando in un portavoce rilevante sulla questione delle armi e dell'armamento, tanto che è stato lui che poche settimane fa ha parlato del programma di droni statunitense, dando per la prima volta cifre sui morti, no? Si è parlato di 4.700 morti in questo programma di droni, che chiaramente sono cifre che possiamo immaginare e che molti osservatori internazionali dicono che sono sottostimate, però comunque sia, la prima volta che escono nella figura di questo senatore repubblicano, che ha fatto un intervento che dobbiamo analizzare, molto interessante, perché lui ha parlato, cioè ha fatto come un'equazione diretta, uso di armi chimiche uguale intervento anche degli Stati Uniti, più in là, e senza fare nessuna considerazione su chi le possa avere usate. Alle poche ore è girato anche un video che ho visto, potremmo anche, se volete poi lo linkiamo, facciamo un link nella web della radio, è un video in cui alcuni ribelli minacciano, o alcuni gruppi di ribelli minacciano con l'uso di armi chimiche, e addirittura è una cosa veramente allucinante, no? Da far venire la pelle di punta, lo usano su un coniglio per far vedere che insomma, che sono disposti, ben disposti a utilizzarlo. Il coniglio muore in pochi secondi davanti ai nostri occhi, mi immagino con grande orripilio di tutte quante le sensibilità animaliste, come anche la mia, voglio dire, però insomma in questo caso il contesto è molto più allucinante. Ora, più in là del video, che sicuramente io penso come periodista e come giornalista internazionale, come persone che cerchiamo l'informazione, si deve verificare, no, esattamente chi l'ha messo, chi l'ha commentato, perché questo video, come mi è arrivato a me, già era commentato comunque da gruppi che facevano vedere che le armi chimiche che si vedono nel video hanno un'origine, una fabbricazione turca, per cui dicendo che queste armi chimiche sono arrivate da Turchia o da Qatar o da Arabia Saudita. Ma comunque sia, insomma, più in là del video in se stesso, che può essere episodico, secondo me si è creata una situazione reale nella quale è possibile cercare di armare o che si utilizzano queste armi chimiche, perché c'è tutta una sensibilità, tutta una campagna già pronta dei mezzi di comunicazione internazionale. Secondo me non è una casualità che questo attacco sia avvenuto 2 giorni prima di discutere in Dublino l'eventuale sollevazione dell'embargo per armare ribelli, no? mi sembra pochi giorni dopo, tra l'altro, dell'appello di Assad all'intervento del BRICS, no? mi sembra di nuovo una campagna orchestrata, perché la sensibilità è come il limite, no? Utilizziamo le armi chimiche e dopo l'intervento automatico, più in là di chi le utilizzi, cioè mi sembra gravissimo, e su questo noi dobbiamo essere preparati, cioè un poco analizzare e a dirimere, perché io voglio fare una domanda, cioè che la lascio aperto, cioè con Iraq già abbiamo avuto una lezione, cioè la mia domanda che lascio veramente aperto a tutti i compagni, a tutto il pubblico, a tutta la società civile, ma non apprendiamo mai? Cioè abbiamo bisogno un'altra volta che ci creino l'utilizzo delle armi chimiche, la scusa di nuovo per entrare, per fare quello che veramente gli fa più comodo e quello che vogliono? Perché diciamoci la verità, a questo punto è anche la logica, l'ultimo che avrebbe, poi in questo momento, cioè rimettiamolo nel quadro, in un momento in cui il conflitto è entrato perlomeno in una fase di stagnazione, se non ben di ritirata progressiva dei ribelli, cioè l'interesse in questo momento del governo sirio, del governo di Siria, a utilizzare le armi chimiche, secondo me è il minimo. Poi che possano esserci azioni pazzesche da un lato e dall'altro, ma molto di più secondo me dal lato appunto di un fondamentalista, insomma, islamico, perché va più con la loro natura, cioè a me sembra veramente molto poco probabile. E ripeto, cioè la domanda è: ma non apprendiamo mai? Cioè c'è bisogno di un'altra volta di passare per questo, che ci facciano pensare che ci sono le armi chimiche per poter entrare e distruggere nuovamente un altro paese e occuparlo militarmente? Io spero veramente che noi siamo diventati molto più maturi e non ci sia bisogno di questo. Allora, quando sono le 2:20, direi che possiamo, insomma, anche terminare qua. La cosa che sicuramente prossimamente, secondo